materia sono morto e questa materia disincarnata flutta senza sapere dove andare. Tenterò l'impresa più difficile, degna conclusione della mia vita. Scriverò una storia, consegnerò pochi frammenti di verità su quello che è accaduto in quell'angolo del mondo che amavo e che ora vedo sacrificato al Dio del presente. Ho scritto lettere ai giornali, ho firmato denunce in 5 procure della Repubblica, persino minacciato scandali. Ho cercato di ottenere il miracolo da una ragazza che vomitava petali di rosa. Ho creduto nella rabbia, nella giustizia, nella curiosità. È stato inutile. Sono stato giovane. Ho cantato, ho sognato. Ho diviso guerra e passione con migliaia di altre. Ho fatto pochi. Ho creduto in questo, in quello. Dio, patria, famiglia, dovere, democrazia. Cercavo risposte e invece ho collezionato solamente domande. Domande che adesso sono chiuse con me. Nel bagagliaio della vecchia Alfa Romeo verde. Si dice dalle mie parti. A 84 anni ci sono uomini che aspettano di morire e basta. Io stavo benissimo. Se mi fossi accorto della presenza di quei due intorno alla casa, li avrei accolti con una fucilata. Parlerò invece del paese che non c'è più e che mi ha preso in ostaggio. Marina. Onde. Spiagge silenziose. Voci di bambini, lagune, polvere d'acqua. Ville romane e fenicotteri rosa. File d'oleandri. Relitti fantastici. Dune, punteggiate da minuscoli fiori blu che chiamavamo occhi d'angelo. Era così 40 anni fa, quando il mare era uno specchio intatto, le conchiglie non odoravano di ammoniaca e il paese era popolato da un migliaio di persone. C'era la chiesa, e l'asilo era in fondo, e c'erano le ville dei ricchi, con le terrazze, per le feste da ballo all'aperto, e le tettoie, ricoperte da lampicanti, c'erano aiuole, fontane, Ma se qualcuno di voi verrà a marina oggi, farà fatica a vedere con i miei occhi. E non ci sono più le dune, e nemmeno i fiori. Al posto delle ville, incrocerete un bel tratto d'asfalto rinforzato per far passare i camion. I resti dei pavimenti dipinti a mano e coperti dalla sabbia hanno cancellato tutto. La casa del mago, il viale, la scogliera delle sirene, tutto! Eppure qui una volta c'era un paese che respirava il mare. Un mare che ti ondeggiava sotto i piedi, che ti veniva pure la nausea. Così ti ricordi che la terra è provvisoria. Ma l'acqua è eterna. Anch'io fatico a ricordare com'era. Non so più chi è e perché aveva piantato una fila di lillà. E quando è scomparso il sentiero che portava alla punta? Così? Abbiamo vissuto nell'agonia di Marina, quando ci hanno tolto l'acqua per bere, le licenze per lavorare, il mare per pescare. Le elezioni e il partito dell'uomo qualunque si squagliò. Avevo appena comprato un'Alfa nuova, verde bottiglia, bellissima, l'unico lusso della mia vita. E guardavo distrattamente la posta. C'era una lettera di Simone Palotto. Leggo. Sette pagine. Per ricordarti che Marina mi fa cancellata. Sette pagine per dire a un fratello che al posto del mare della spiaggia avremo una raffineria. Che ho visto un plastico tipo prese, ma la gente non se ne vuole andare. La gente ha bisogno di una guida. Ma presi l'Alfa nuova e voltai le spalle a Roma. Si torna a Marina. dico qualcuno. Sento un uomo qualunque. Pensavo bastava il mio nome per raccogliere denaro, nobilitare avvocati. E invece scoprì subito che cosa stava succedendo. Mi ritrovai indifeso di fronte alle lettere che reclamavano la nostra terra, di fronte alle ruspe e agli intrighi. Ah, le prime barricate furono un divertimento. Lo stupore dei giornalisti, le interviste imbarazzate, le bombe che bruciavano ai bordi della strada provinciale, i cartelli "Marina non si tocca". E poi i giudici, sì, le catene, gli interrogatori, le denunce. I giudici, sì, che mi guardavano come se fossi piovuto da un altro pianeta. Ma chi ce l'ha mandato? Ma chi ce l'ha portato? Ma insomma, lei che cosa vuole? Io? Cosa voglio? Voglio giustizia. Per il mare, per la mia terra, per la mia gente, per le nostre case. Volevo fermare il tempo. Dopo 8 mesi, quando i primi arrabbiati si calmarono e iniziavano a vendere per 4 soldi, quando le ruspe avevano iniziato a ingoiare le nostre case e il plastico di Marina non era più solo una leggenda, organizzai un blocco stradale, seduti sull'asfalto. Non sembrava una battaglia memorabile, e forse non lo era, ma presto avremmo avuto il nostro quarto d'ora di gloria. Non si aspettavano una fila di camionisti urlanti, e noi non ci aspettavamo i carabinieri con gli scudi e gli idranti. 2 notti in carcere. Padre e mia madre avevano venduto casa, sparita, in briciole di niente, e mi avevano cancellato dalla loro vita, considerandomi una vergogna. Volevo salvare Marina dalle autostrade, dalle raffinerie, dai ladri e dai sindacalisti, e per farlo avevo come compagni un panettiere pazzo, un macellaio ostinato e un giovanotto dagli occhi buoni, Paolo. Lui pensava solamente a pescare e a fotografare. Noi pattugliavamo la guardia, controllavamo gli scavi. Alle nostre parti comunque si cerca e si rischia di trovare qualcosa, persino il petrolio. Pensavo che una tomba, una moneta, una statua potevano fermare quell'esercito di ingegneri, petrolieri, geologi che si stavano esercitando sui nostri destini. Era già successo a Morgantina. Perché non qui da noi? Magari anche la nostra sabbia nasconde un mistero. Ho scavato sotto le dune. Ho trovato pezzi d'anfora, ocra e nero, frammenti di lottatori nudi, mostri marini, piccoli oggetti quotidiani, nulla di importante. Nulla che non fosse sacrificabile e che non fosse già compreso nel prezzo del progresso. Come era già successo a Porto Marghera, a Livorno, in Calabria, in Sardegna, a Liverpool e in chissà quanti altri posti nel mondo. Perché non doveva vincere anche qui il progresso? Thank you. 5 ingegneri, un rotoli di carta sotto braccio, forse zeppe di documenti e monedini in plastica da esporre nelle sale del comune. 5 ingegneri direttamente da Bruxelles, gente diversa da noi, fatta per vivere di cose, incantati di fronte al nostro mare. Sentirono qualcosa? Respirarono nell'aria il profumo dei giardini passati. Voglio credere che per un attimo soltanto si siano vergognati del loro incarico devastatore. Rimasero una settimana. Poi 4 di loro partirono e uno si fermò. Ernest Dubois. Ernest Dubois era speciale. Ci aveva insegnato cose che nessuno di noi conosceva sulla rarità di certi pesci. Fu grazie di lui che rimiamo di 4 anni lo sbancamento di un pezzo di scogliera. Aveva trovato un'insignificante lumachina rossa scomparsa ufficialmente da 50 anni nel Mediterraneo. Diventammo amici. Lui ci raccontò le scoperte che aveva fatto, le cose che aveva visto, le chiese, i casali. E lì aveva preso una decisione importante. Non parto più. Non torno a Bruxelles. Non torno a casa. Con la Giulietta voglio prendere un pezzo di terra dove non c'è mai uno giorno, senza uno spicchio di sole. Prima però avrebbe depositato una relazione che sconsigliava la costruzione di una raffineria marina. I costi sarebbero stati troppo alti e le lavorazioni non competitive. La verità era un'altra. Era la certezza che niente della nostra magnifica baia sarebbe sopravvissuto ai residui industriali, ai fanghi rossi, alle scorie. Disse di no e ci rese felici. Eravamo toccati dalla grazia, ci sentivamo dalla parte di Dio. Sulla scogliera si aggiravano ombre minacciose, fiammelle azzurre si accendevano nel buio di fuochi e tonfi bisbigli popolavano la spiaggia. Sotto la palata si vedono 3 uomini con lampade schermate che piazzano piccole, ben calibrate, cariche di dinamite. Saltammo addosso quei 3 disgraziati, tra schiaffi e bestemmie ci sfuggirono. Capaci non era il nostro mestiere, ma Ernest Dubois ne afferrò uno e gli illuminò il volto tirato per la rabbia. Era il guardiaspalle dell'onorevole Nitto Cinque Mani, Peppino Nicosia. Mestiere assassino. Capimmo subito che eravamo entrati in un gioco troppo grosso. Volevamo fare la denuncia. Andammo dai carabinieri. Ma di fronte al nome di Peppino Nicosia, le 2 dita che battevano metodiche sulla sgangherata Olivetti si fermarono a mezz'aria. Segua strada. Lei ve la faccio io, il brigadiere. Ma scrivete a mano, il maresciallo. Ma per quanto si dessero da fare, non c'era penna, matita o altro oggetto capace di lasciare un segno su un foglio di carta e consegnare alla giustizia il nome di Peppino Nicosia! Tornate più tardi, Ma era verso mezzogiorno. Anselmo sentenziò: avremo guai. Quella frase mi tornò in mente quando, passata una settimana dalla notte sulla scogliera, ed Ernest Dubois non si era visto. Andammo a cercarlo, cercando in giro. Battemmo palmo a palmo la scogliera. Arrivammo fino ai rifugi. sulle spiagge. Era disteso a faccia in giù, i polsi legati dietro la schiena con il fil di ferro, la testa nell'acqua. Restammo impietriti. Da vigliacchi speravamo che il suo sacrificio bastasse per calmare i nostri nemici. Allora decisi di scendere sulla spiaggia. Mi voltai verso il sole, la faccia devastata di quell'uomo. Fu allora che vidi all'altezza del cuore un minuscolo fuoco. Era la firma di Peppino Nicosia. Chiamammo i carabinieri. Arrivarono il maresciallo, l'appuntato, i carabinieri. Raccolsero il verbale con le nostre testimonianze. Ah, questa volta funzionava tutto. Ma nessuno osò nominare Peppino Nicosia. L'inchiesta archiviata. Incidente. Ah, 15 giorni dopo arrivò un altro ingegnere e l'avvocato Germano Belfiore ci confermò le cattive notizie. Secondo quello che diceva la relazione, Ernest Dubois dava parere favorevole alla costruzione di una raffineria. Non ci volevo credere. Per 5 minuti ci ho creduto, mi hanno mostrato la firma, ma mi torturavo l'idea di trovare la falsificazione. Fu allora che ricordai dei quaderni conservati nella borsa di Tea a casa. Infatti, accanto al quaderno del mare, insieme alla brutta copia della relazione che chiedeva grazia per Marina, trovai la certezza dell'amicizia. Ernest Dubois non ci aveva traditi. Lui, no. approfittando del fatto che Concettuna Pastazzo era andata dalla madre con i figli e il marito Nino era in ospedale per la dialisi. Hanno portato fuori la cucina, le sedie, il tavolo, i due bauli, la credenza, l'armadio. Hanno ammucchiato dentro uno scatolone scarpe, vestiti e giocattoli. Quando finirono, sono uscito sotto la mezzaluna per guardare quella prateria di conchiglie morte che biancheggiavano in mezzo al verde. Ho pensato a Concettuna Pastazzo. Concettuna l'indomani non avrebbe trovato più la sua casa. Ho pensato anche all'appartamento in città che l'attendeva. Due stanze con mista. Sulla raffineria. Dell'onorevole Nitto Cinque Mani, che era grande quanto un tavolo. Marina per come diventerà, il plastico del futuro, la ricchezza per tutti, con il colore, la forma della nuova raffineria. Moltiplicando il dividendo, addizionando il socento, ho calcolato con precisione matematica. L'acqua del mare veniva attraversata da onde che sembravano di latte, che attiravano pesci mai visti e uccidevano i nostri. Così cambiava il mare. La baia che gli dei avevano smesso di proteggere. Il progresso è matematicamente calcolato. L'onorevole Cinquema ci stava comprando tutto. Continuava con i suoi 80.000 voti di preferenza a sistemare cognati, cugini, nipoti, a tagliare nastri, inaugurare scuole, a decidere per tutti. La sua battuta preferita? Sono l'amministratore delegato di Dio. amministratore delegato da Dio. Ma qual è questo? Un Dio che non ci ama? Può un Dio non amare i suoi figli? E allora non amministra che un altro Dio? Il Dio del progresso. Io l'ho sfidato e ho perso. Tant'è vero che il mio corpo è chiuso nel bagagliaio della vecchia arte. Io sono un uomo qualunque, un Don Chisciotte senza Dulcinea. Simone Palombo cominciò a fare il pane con l'acqua del mare nell'ottobre piovoso del 1982. Marina era un deserto sotto la raffineria. La spiaggia era sommersa da montagne di alghe scure che sembravano vive. Ci avevano tolto l'acqua e rubavamo la luce dall'illuminazione pubblica. La diffida era chiarissima. Se Simone Palombo non avesse continuato a fare il pane, vi avrebbero revocato la licenza. Riempimmo così i bidoni sotto la scogliera e dopo averli passati al setaccio, Simone, piangendo, impastò le pagnotte della nostra disperazione. Quando furono pronte, avvolte nel vapore buono, calde, e croccanti come sempre, mi venne voglia di assaggiarle, ne staccai un pezzo. Sapevano di sale, avevano il gusto del mare malato e i suoi sapori, oltre che i colori. Dopo le prime volte smise di filtrare l'acqua, così nell'impasto finivano alghe filamentose, pesciolini sfortunati, tappi di plastica, cicche di sigarette, fette di pane di colore viola, verde, bluastro di pietra marina. Già. Il pane delle sirene. Piano. Il pane dei matti. Simone. E per me? Il pane della verità. Pane che oggi è reperto in tribunale. Prova che il prezzo del progresso è stato pagato. Tutto! Paolo scattò le foto quasi per scherzo. Un mese dopo avevano fatto il giro del mondo e la via delle notorietà sono non finite. E la nostra cominciò con un sequestro dell'ufficio igiene. Chiuso dentro un sacco, il pane della verità, ancora caldo, venne portato in laboratorio e lì ci rimase per 15 giorni. Il biologo non moriva dalla voglia di fare quel lavoro e quando se ne ricordò era tardi. Ma tagliò. La mollica aveva un magnifico color viola cardinalizio con sfumature marmorizzate. L'analisi dell'acqua dell'impasto fu interessantissima. Conteneva 3 pagine di metalli e altri derivati. Solfuri, cloruri, cianuri, idrocarburi, resine sintetiche, coloranti, un personalissimo e casuale cocktail. E il nuovo medico provinciale a quel punto fece raccogliere una dozzina di campioni lungo tutta la scogliera e scoprì una verità già nota a tutti. l'acqua di marina non era più mare. Spuntò un cartello rosso con la scritta divieto di balneazione, che prometteva multe salatissime ai trasgressori, se mai ce ne fosse stato qualcuno, perché era da anni che nessuno frequentava ormai quella spiaggia fantascientifica, se non per guardare l'orlo violetto delle onde e le sagome dei pesci intatti. Rosario D'Andrea, giudice, valutò con un certo interesse la notizia criminis. Chissà cosa c'è dietro quella storia dell'inquinamento. E senza chiedersi il perché e per come, aprì un'inchiesta. Ci sarà un processo il prossimo gennaio. E io non lo vedrò, se non in questa forma effimera. Sarà l'esecuzione di una giustizia tardiva, senza parti da risarcire, senza testimoni. Qualcuno forse pronunzierà la frase magica della distruzione. Cloruro di vinile. Cloruro di vinile. Cloruro divinibile. Si potrebbe anche mettere in prosa, sillabare, cantare. Uccidi lentamente. Uccidi lentamente. Uccidi con stile. Respira tutti i giorni, l'oro di vinile, l'oro di vinile. No, no, l'oro di vinile. No, non ci sono più gli assassini di una volta. Uomini che avevano delle regole, a modo loro, e un'etica. La parola non fosse imbarazzante. Compagni di scuola. Scuole medie, 2 anni di ragioneria. Li ho visti crescere, mi assassino. Visti andare in giro la moto svermittata, sbignazzare l'ufficio postale, dando spintoni agli anziani in fila per la pensione. Mentre morivo, ho riconosciuto uno dei due, quello che stringeva forte la garrotta. Sotto la barbetta rara e i capelli ricci, c'era il bambino che una madre inesperta teneva tra le braccia. Quel bambino che non sarebbe mai venuto al mondo se un certo giorno non fossi corso a strappare la madre dalle mani di zia Teresa, pronta ad aiutare le ragazze in difficoltà con ferri da calza e lavande al presente, e non avessi costretto il padre al matrimonio riparatorio. Nuccio Prazzida e Nitto Scavo, alias Franchina. Il bambino che non sarebbe mai dovuto nascere. Peccato non poter portare indietro il tempo. Quel che fatto è fatto. Quel giorno di 20 anni fa, nello slancio di salvare una vita umana, ho trovato un arcangelo liberatore che non cercavo. Ho scelto senza sapere. Il mio assassino. Il giorno che non sapevo sarebbe stato l'ultimo. Il più importante era ieri, 4 maggio 1992. Quando Lina è uscita, avrei voluto seguirla. dentro una scatola di cartone ho raccolto tutti i miei tesori. Scatola sulle ginocchia, mi sono seduto al sole e sono scivolato in un sonno molto simile alla resa. Il campanello di una bicicletta era il postino, un buon mero, e mi portava le lettere che non avevo più diritto di ricevere. Lui andava sempre di fretta, ma quella volta mi sembrava curioso di sapere chi mandava una busta gialla così grande da Milano. L'ho aperta lentamente. Dentro c'erano varie cose. Il catalogo non ancora rilegato di una mostra fotografica. Titolo: Un luogo qualunque. Cinquanta stampe avvolte nella carta velina e strette forte con l'elastico. Un regalo per me ed una lettera di Paolo. Era andato via, aveva tradito tutti, ma forse aveva fatto bene. Guardavo le foto che appartenevano ai giorni ormai lontani. La prima ruspa, la chiesa ridotta in briciole, la necropoli violata, gli occhi e la bocca di Ernest Dubois mangiati dai grandi, la bambina morta, gli scarichi abusivi delle anelline, dell'ammoniaca, i pesci morti che galleggiavano sull'acqua avvelenata, il plastico di cui l'onorevole Cinque Mani negava l'esistenza. Il vento me le ha strappate di mano e non ho avuto la forza di raccoglierle. Si è salvata grazie a un tradimento. Marina rinascerà e sarà ricostruita. L'acqua tornerà limpida e gli occhi d'angelo torneranno a sbucciare sulla sabbia. Marina sarà dimenticata e una strada deserta costeggerà la spiaggia fino ad arrivare alla fine di lì. Misurando nel tempo e nella distanza il prezzo del progresso. I pezzi del mosaico adesso si incastrano perfettamente. La citazione per testimoniare, l'uomo col binocolo, le telefonate enormi, la guardia giurata che insisteva. Vada via di qua, non è posto per rimanere soli, potrebbe succedere qualsiasi cosa. Mille piccoli indizi che non ho saputo, non ho voluto cogliere. Ero stanco. Dentro di me sentivo di aver vissuto abbastanza. E ho nascosto il desiderio inconfessabile di un sonno assoluto. Lina mi lascia, vado al dottore, vado a sua sorella, lontano dal deserto di Marina. Lina taglia le dadi, mi dà un bacio frettoloso, chiude la valigia. Sento lo scatto della porta. Torno. non sa ancora che questo è un addio. Mi chiamavo un uomo qualunque.